se cantare non ricominciare a parlare o esco allergico. Lasciami urlare, lasciami parlare, voglio dire ogni volta la mia. Se vuoi che siano parole d'amore ti mando a cagare scopando con te. Quando il tramonto che fa innamorare tra le case si coricherà, fai che percorre strade più lontane da quelle su cui cammino io. Ma saluta